Una cosa curiosa è che è come per i processi italiani, no? Il mercato dell'Inter viene fatto in piazza. Gli altri, quando esce una voce, perché hanno già firmato. All'Inter invece arriva il temporale all'improvviso. Credo che questo sia un po' giusto rispetto agli ultimi anni, dove invece ci si divertiva anche perché senti, c'era la lista di chi vuole venire all'Inter, e anche adesso ti assicuro che c'è la coda. Sì. No, c'è un po' di situazione che nessuno se l'aspettava, perché credo che lo stesso Leonardo, insomma, non se l'aspettasse che arrivasse una proposta di questo genere, dove hai meno stress, dove magari negli ultimi anni lui ha allenato Milan e Inter tutti i giorni, insomma, dove dimostrare. Qua è un ruolo da dirigente con un contratto pesantissimo, e credo che lui abbia scelto o stia per scegliere la situazione di comodo, perché fai il dirigente, però nello stesso tempo, quando si hanno degli impegni e dei contratti con grandi società, e io parlo della mia Inter, certo, bisogna essere anche molto delicati e affrontare il discorso, anche perché devi sempre chiedere, perché alla fine in questa situazione è la società che comanda.